Wayne Santana. Sto fumando kush, fanculo al tuo ginseng. Non fai bling bling senza fare bang bang. Troia mi chiede se la sto pensando. I miei amici pronti a tutto, pronti a farlo. I tuoi amici bla bla bla, bla, bla, bla. Sto fumando fiori, non mangio quella merda. Pantaloni stretti, non so dove metterla. Non fotti dar gang. Non vuoi un naso da clown. Sto su quelle benzo. Se parli troppo non ti sento. Soldi dentro i jeans. Sto pensando ai soldi. Non fai blim, non fai blim. Bling senza fring, senza fring, senza bluffe, bluffe, bluffe, bin, bluffe, bin. Danza, danza, danza, fare bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Bluffe, blim, bluffe, blim, bluffe, blim. Bling senza fring, senza fring, senza bluffe, bluffe, bluffe, bin, bluffe, bin. Danza, danza, danza, fare bam, bam, bam, bam. Ancora sveglio, non sogno nulla. Non mi addormento senza Eufon. Ho una bomba lunga un metro. Mi danno spaccio fra per quanta ce n'è dentro. La tua tipa fra mi fissa in centro. Sì, proprio come un monumento. Ed è già nuda sopra il letto. Sì, c'è il primo appuntamento. Quando rappo appunto ha detto. Tenta nella stanza, faccio smoking session. Ogni mio fratello brinda e fuma spesso. Spesso in giro si fragombe più di un netto. Voglio diventare re, portami lo scelto. Sono questa tipa pure senza plettro. Questo non lo vedo, mi sembra uno spettro. Mi guarda volare sì come un aereo. Buffe blim, buffe blim. E sto pensando ai soldi. Senza fring, senza fring. Si sto pensando ai soldi. Buffe bim, buffe bim. Sto pensando ai soldi. Senza fare bam, bam, bam. Si sto pensando ai soldi. Non fai blim, non fai blim. Solo ai soldi. Solo ai soldi. Solo ai soldi.